24 di Giovanni Minoli. Donald Trump s победой на этих. Presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con Donald Trump. Le dichiarazioni del neopresidente americano, che ha affermato di voler cercare un riavvicinamento con la Russia, piacciono. La diplomaticissima reazione di Sergei Lavrov. Rispettiamo la scelta dei cittadini statunitensi. Naturalmente auspichiamo che le relazioni tra Russia e Stati Uniti migliorino. Le elezioni presidenziali in Bulgaria e Moldavia hanno visto l'affermazione dei candidati filorussi. Due nuovi capi di Stato avevano più volte dichiarato di essere favorevoli a nuove e migliori relazioni con Mosca. Donald Trump conferma il pugno duro sull'immigrazione. Nella prima intervista rilasciata alla CBS ribadisce l'intenzione di costruire un muro al confine col Messico. Buongiorno, bentornati a Mix24, buongiorno professor Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera. Abbiamo sentito, le espulsioni e il muro annunciato da Trump sono al centro del dibattito. In realtà però, come abbiamo detto anche ieri qui in trasmissione, l'idea del muro è di Clinton e lo stesso Obama ha già espulso quasi 2 milioni e 800 mila clandestini dagli Stati Uniti senza che nessuno si scandalizzasse. Ecco, professor Romano, due pesi e due misure, eh? No, per la verità è lo stesso peso e la stessa misura, soltanto quello che cambia da un presidente all'altro è la voglia o la, come dire, la non voglia di mettere l'accento su certi problemi. Naturalmente Obama non avrebbe mai cercato di trarre vanto, di trarre prestigio dalle espulsioni, perché quelle espulsioni in qualche modo venivano addebitate naturalmente agli organi di polizia, certo, e facevano parte di una routine di cui non si cercava di trarre gloria. Cioè si faceva finta di niente, diciamo, detto ecco. Però proprio il fatto di aver avuto tutto l'establishment contro può essere stata una delle ragioni della vittoria di Trump? Io credo di sì, credo che effettivamente lui abbia tratto vantaggio da questo, ma molte delle cose che farà non saranno troppo diverse da quelle del suo predecessore, perché a un certo punto lui stesso si renderà conto dell'impossibilità di per esempio pregiudicare la sorte della NATO o altre decisioni di questo genere. Ecco, infatti Rudy Giuliani, che è il suo collaboratore stretto, ha detto di Trump è un pragmatico. Barack Obama anche lui ha detto di Trump è un pragmatico. Insomma, Trump è figlio della storia in qualche modo, un uomo giusto al momento giusto, è d'accordo? Sì, certamente. Tenga presente che c'è però un aspetto in qualche modo che forse non dobbiamo dimenticare. In questo momento e ancora per qualche settimana, forse per qualche mese, Trump dovrà pagare dei debiti. Certo. I debiti che ha contratto con tutti coloro che appartengono anche a gruppi molto radicali, molto estremisti e che lo hanno aiutato a vincere la battaglia della presidenza. Quando li avrà pagati tutti comincerà, credo, a fare una politica. La sua presidenza, ecco, ma sono debiti che dovrà pagare sostanzialmente o formalmente, verbalmente? Vede, tra le altre cose, forse un aspetto che non abbiamo preso abbastanza in considerazione, in questa fase il presidente degli Stati Uniti, non appena eletto, deve nominare 4.000 persone. Sì. Ah, certo. Beh, 4.000 persone gli consentono certamente di pagare dei debiti, certo. Ecco, c'è stata ieri una telefonata tra Putin e Trump. Il dialogo della distensione si è avviato oppure una guerra fredda ripensata calda in qualche modo? Beh, io credo che noi dovremmo partire dalla constatazione che la Russia e prima l'Unione Sovietica hanno sempre preferito i presidenti repubblicani e i presidenti democratici. Naturalmente. Perché i presidenti repubblicani sono un po' più isolazionisti, essere isolazionisti significa non essere in piccioni, da un punto di vista, certo, russo naturalmente. Sì. Mentre invece i democratici sembrano avere, anche quando invece sono un po' ipocriti, un senso missionario della diffusione della libertà nel mondo. E questo naturalmente non piace ai russi, perché significa finanziare organizzazioni umanitarie che poi organizzano manifestazioni, tutte, certo, cose che i russi detestano. Ecco, nel suo libro, ultimo libro, Putin e la ricostruzione della grande Russia, qual è la tesi di fondo? La tesi di fondo è che quando l'Unione Sovietica si disintegrò esistevano tutte le condizioni per stabilire con la Russia un rapporto positivo, un rapporto di convenienza reciproca. E invece questa occasione è stata sprecata, perché abbiamo utilizzato la NATO forse anche per fini strettamente economici. Non dimentichi che tutte le volte che entra un paese nuovo nella NATO entra un nuovo cliente, certo, per l'industria militare americana. Insomma, per tutte queste ragioni noi siamo arrivati alle frontiere non della... Cioè abbiamo venduto una possibilità politica. Certamente, quell'occasione è stata perduta. Forse adesso Trump, che non ci piace per tante altre ragioni, sì, naturalmente, potrebbe essere l'uomo che è pronto a coglierla. Ecco, ma a che cosa non rinuncerà mai Putin? Su cosa invece cederà con Trump? Dov'è che si può immaginare un punto? Ma io credo, per esempio, che un possibile accordo potrebbe essere la Siria. Ecco. Se gli Stati Uniti smettono di volere la fine del regime siriano di Bashar al-Assad e permettono alla Russia di continuare ad avere queste sue basi mediterranee che ha ormai da decenni, ma su questa base si possono costruire rapporti diversi. E in fondo Trump l'ha già detto che Assad resta, mi sembra, no? Mi pare di sì, ma a questo punto non ho tenuto il conto di tutte le dichiarazioni di Trump. Naturalmente. Senta, ma Putin vince anche perché le democrazie stanno dimostrando tutta la loro debolezza? Certo, Putin in un certo senso è reso più forte dalla crisi delle democrazie. E può con qualche ragione, ripeto con qualche ragione, non tutte certamente, dire ma io garantisco l'ordine e anche un certo equilibrio sociale meglio di quanto state facendo voi. E infatti c'è un moderato come Dini che sorprende, che dice che Putin può e forse deve diventare il punto di riferimento dell'Europa, è possibile? L'Europa centro-orientale? Ma non lo so. Credo che, voglio dire, certi pregiudizi anti-russi siano molto più vecchi di Putin, e di Trump e anche di tutti noi. Senta, ma la NATO si appresta a uscire di scena, cambiare ruolo, oppure è tutta una manfrina? La NATO non continuerà ad esistere, anche se non è più necessaria, anche se non è più indispensabile comunque. La NATO continuerà ad esistere, non conto troppo che le mie speranze si realizzino su questo punto. Certo. Ma si sta creando un nuovo ordine mondiale, o comunque l'embrione di un nuovo ordine mondiale che vede Stati Uniti, Regno Unito anche, la Russia con una quarta sedia per la Cina, che fanno in qualche modo una nuova Yalta, come dice Mario Secchi? Ma prima di arrivare a quel nuovo ordine mondiale molte cose dovranno accadere. Allora, ora siamo nella fase del disordine. Certo, adesso sì. Certo, ma l'amministrazione Trump darà filo da torcere all'Iran o troverà un modus vivendi con l'Ayatollah? Cioè rispetterà gli accordi? Ma io credo che, spero che Trump si accorgerà che quell'accordo non è un accordo fra gli Stati Uniti e l'Iran, che lui può denunciare a suo piacimento. Quell'accordo è un accordo internazionale con le Nazioni Unite, che naturalmente hanno fatto da notaio, e che concerne altri paesi che non hanno nessuna intenzione di rompere con l'Iran. Anche questo dovrà essergli spiegato. Ecco, professor Romano, ma quali sviluppi immagina lei nella grande battaglia commerciale che Trump dovrà aprire inevitabilmente con la Cina? Beh, questo vede... forse non lo hanno sufficientemente informato. Lui certamente ha preso una posizione molto dura nei confronti dei cinesi, li ha accusati di essere manipolatori di valuta, ha detto che bisogna applicare dei dazi e si è dimenticato che i cinesi sono proprietari di una somma difficilmente calcolabile, ma probabilmente superiore a un terzo del debito pubblico americano. Ah, ma c'è questo, è un'arma di ricatto o comunque di trattativa molto molto forte, no? E che i cinesi useranno. Ecco, ma Pechino però è potente in più sia sul piano economico che su quello militare, quindi il Pacifico in qualche modo sarà un teatro di scontro. E qui Trump ha un altro problema, manderà all'aria l'accordo per il Pacifico, del resto quell'accordo era contestato ormai anche da altri, ma si è dimenticato che quell'accordo era stato fatto per in qualche modo isolare la Cina, quella era stata la strategia di Barack Obama, facciamo un accordo con tutti i paesi del Pacifico tranne la Cina e la teniamo fuori. Adesso se lui manda per aria l'accordo, la Cina non è più così isolata come lo sarebbe stata. Ecco, professore, un'ultima cosa, sempre una valutazione sulla presidenza Obama. Si può dire, semplificando, bravo in politica interna, pessimo in politica estera? Paralizzato in politica estera, paralizzato dai suoi scrupoli, dalle sue esitazioni, amletico. Non, tutto sommato mi sembra una personalità molto ammirevole, moralmente, civilmente. Cioè, buone intenzioni. Molto buone le intenzioni, sì, e non sempre realizzate. Lei lo vede, un'ultimissima cosa, un qualche forma di rapporto, di similitudine, di somiglianza tra Trump e Berlusconi? No, ma ci ho pensato anch'io, per la verità. Sì. Ci ho pensato anch'io, l'uomo d'affari in politica, però naturalmente Berlusconi non ha dato quello che aveva promesso. No, naturalmente, ma io parlo dell'inizio dell'avventura, perché in fondo Berlusconi ha preso tutti i voti a Mirafiori, come Trump ha preso i voti degli operai, cioè un'analogia di partenza, ecco, in qualche modo. Sì, certamente ci può essere. Devo dire a questo punto che troverei Berlusconi quasi più gentiluomo di Trump. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Mario, hai sentito, ne abbiamo parlato, sì, con Romano ieri sul Foglio, tu hai scritto che ci sarà una nuova Yalta, insomma, sì. Perché? Perché è finito il Novecento. L'elezione di Trump l'8 di novembre ha fatto finire il secolo breve di raccontato da Hobsbawm, no? E a questo punto... Breve, che poi è stato lunghissimo. Esatto. E a questo punto la realtà si impone, cioè intorno al caos si costruirà un ordine. Secondo me si riapre lo spazio dell'Atlantico. Solo un secondo. Cioè, Obama è stato il presidente del Pacifico. E aveva rotto quella che si chiama anglosfera. La Brexit prima e l'elezione di Trump dopo riaprono questo spazio atlantico, liberano il Regno Unito, che fino all'8 di novembre non aveva un chiodo al quale appendere il quadro della Brexit. E adesso con Trump ce l'ha. Si apre lo spazio dell'Oriente, sempre per il Regno Unito. Ricordatevi che Hong Kong era del Regno Unito. Commonwealth. Sì, esatto, l'impero, il Commonwealth, eccetera. Bisogna trovare la quarta sedia. Putin, lo abbiamo già visto quanto è fondamentale qui a Mix 24 in questi anni ormai che lo, certo, raccontiamo. E quindi le tre sedie ci sono tutte della nuova Yalta. Bisogna trovare la quarta sedia per Xi Jinping, cioè per il leader cinese, che è il grande dilemma della politica di Trump. Ecco, e tu, Pietrangelo, dove li vedi questi segni dei tempi nuovi? Ancora una volta tra le aspre setole della barba di Carlo Marx. Perché c'è un ricco che si è messo alla testa dei deplorevoli e ha aggiornato la dialettica. La lotta di classe adesso vede contrapposte le élite e appunto il popolo, i deplorevoli, come li aveva definiti Hillary Clinton. Ed è la guerra tra gli alfabetizzati e gli ignoranti. Ora la vera fatica sarà quella nel sapere strutturare un soviet vero e proprio. La fatica di Trump sarà quella di contrapporre a un'elite un'altra elite. E il segno dei tempi è svelato proprio in questo dettaglio, nell'avere realizzato questa rivoluzione nella patria del politicamente corretto, un po', sì, come quando la rivoluzione bolscevica si affermò nell'unico luogo dove Marx non immaginava potesse accadere, cioè nella Russia rurale e feudale. Certo. Dove non c'era industria, esatto, questo è il punto. Tra l'altro. Ecco, Luigi Zingales è economista, docente all'Università di Chicago. Professor Zingales, ecco, può descriverci, per quanto se ne sa, in cosa consiste la politica economica di Trump? Cioè, si può cominciare a dire qualcosa? Beh, dunque, se noi guardiamo alla campagna elettorale, al programma elettorale, ci sono due vene in Trump. C'è una vena di chiamiamola populista, sì, ma non in termini necessariamente negativi, in cui lui enfatizza l'uso, ad esempio, dell'antitrust contro i grandi merger, in cui enfatizza l'importanza di includere la middle class, eccetera, eccetera. E poi c'è invece una politica economica più tradizionale repubblicana che dice eliminiamo il la regolamentazione, riduciamo le tasse, eccetera. Quale queste due proposte prevarrà rimane da vedere. Io penso che alla fine prevarrà la seconda, però rimane una certa incertezza. Ma in cosa consiste questo piano da 1.000 miliardi per le infrastrutture? Fa parte di questa seconda scelta tradizionale, diciamo? Beh, questa diciamo è una via di mezzo, nel senso che non è parte delle proposte tradizionali repubblicane l'infrastruttura. Questa è un'idea che è sempre stata cara ai democratici. Larry Summers l'ha ripetuta a nausea, Paul Krugman l'ha ripetuta a nausea. Secondo me questo sarà il pegno d'amore tra i repubblicani e Trump. Trump darà molte concessioni ai repubblicani tradizionali su tutto il resto in cambio di avere questo. Perché ci tiene così tanto? Beh, secondo me questo avrà un effetto espansivo sull'economia e soprattutto offrirà un lavoro a molti della middle class bianca che oggi che l'hanno votato, certo. Esattamente, esattamente. Senta, ma perché Wall Street corre, Dow Jones ha messo a segno un record storico, tutti avevano paura, invece è andata al contrario? Ma secondo me c'è un senso che Trump non è poi così pericoloso come è stato descritto e che sarà per la maggior parte un presidente tradizionale repubblicano. Il fatto che abbia dato il potere di transizione, che è un enorme potere, a Mike Pence, alla fine va in questa direzione. Cioè Mike Pence è un repubblicano super tradizionale. Se lui è veramente quello con il potere, l'incertezza sparisce e c'è la tradizionale forma repubblicana. Ecco, professor Zingales, ma perché i giornali hanno sbagliato così tanto il racconto di Trump e dell'America? Addirittura il New York Times ha chiesto scusa ai suoi lettori. Secondo me per due motivi. Il motivo più semplice è c'è una certa percentuale di persone, i cosiddetti leaners, cioè quelli che ti confessano un po' venendo verso di te che alla fine votano Trump, persone che si vergognavano in qualche modo di votare Trump e che però hanno votato Trump. Certo. Questo numero non è elevatissimo, però è stato cruciale negli stati che hanno fatto cambiare il voto finale. Ma il motivo più profondo, secondo me, è che il giornalismo è diventato sempre più una cosa di una ristretta elite che si parla addosso, che si parla addosso, certo. Esattamente. E quindi non hanno percepito qualcosa che era molto molto comprensibile, soprattutto dopo il voto Brexit, cioè esatto. Io capisco la prima sorpresa, ma la seconda meno. Può essere sorpresi due volte, esattamente. Senta, beh, questo vale anche per l'Italia naturalmente, anzi, ecco, Trump rinegozierà tutti i trattati di libero scambio, no? Pare che l'ha detto, mi sembra che sia una linea precisa. Ma questo fa parte del compromesso tra lui e i repubblicani. I repubblicani non vogliono questa grande rinegoziazione, quindi io dubito che lui faccia delle cose drammatiche, anche perché se lui mettesse una tassa del 50% sulle importazioni della Cina, come una volta ha detto, il costo della spesa per il suo elettore aumenterebbe mostruosamente e questa è l'ultima cosa che vuole fare. Ecco. Secondo me si dedicherà più a delle cose diciamo di propaganda, come il muro. Il muro alla fine costa poco, dà una impressione di sicurezza e non fa troppi danni. Sì, poi ci dimentichiamo di dire che il muro non l'ha fatto lui, ma l'ha fatto Clinton, c'era già, non è che viene inventato adesso, no? Certo, ma lui ne prenderà il merito, lo farà più grande. Esatto, lo allarga un po'. Esattamente. Senta, ma all'Italia la politica di Trump potrebbe convenire secondo lei? No, secondo me no, perché quello che succede sarà un aumento dei tassi di interesse a livello internazionale. E questo porterà una grossa difficoltà all'interno dell'Europa perché con una probabilmente svalutazione dell'euro la Germania entra in eccesso di espansione e quindi c'è una pressione molto forte su Draghi per aumentare i tassi di interesse per contenere l'inflazione in Germania. E quindi, il risultato è che noi non ce la facciamo dal punto di vista finanziario. E quindi se finisce l'immissione di quantitative easing per noi si aprono dei problemi giganteschi. Certo, il paragone secondo me è con gli anni 80, per quelli che se li ricordano, quando Reagan fu eletto fece una manovra molto espansiva, fece salire i tassi di interesse e l'America Latina andò in default. Esatto. Io temo che questa volta capiti all'Europa Latina. Quindi capita a noi. Lei vede un rischio default per l'Italia? Certo, il rischio default c'è sempre stato. È stato anestetizzato da Draghi, però il rischio default c'è sempre stato. E quindi il prezzo dei titoli di Stato che è crollato e il rendimento si è alzato sono le conseguenze immediate? Assolutamente. E noi cosa dobbiamo fare allora con il nostro debito a questo punto? Diciamo che purtroppo la nostra situazione è molto difficile perché abbiamo avuto una finestra offerta dal quantitative easing per cercare di veramente incidere sui problemi del debito e alla fine non abbiamo fatto un granché. Perché questa manovra è una manovra in cui prevalentemente elettorale? Ma io non direi solo questa manovra, cioè nei 2 anni e qualcosa di governo di Renzi, anche sì. Prima, con Letta non c'è stato un intervento serio, ad esempio sulla spesa, o una pensare come poter ristrutturare in maniera più efficace il debito. C'è una grande opportunità, ad esempio, di allungare le scadenze in maniera mostruosa. L'abbiamo fatto con il bond a 50 anni, ma è stato un'eccezione, non la regola. Avremmo dovuto emettere una quantità impressionante di quei bond per metterci in sicurezza contro un rischio adesso di un aumento dei tassi. Quindi lei vede un rischio grossissimo per l'Italia? Io vedo un rischio molto grosso, sì. La BCE ha acquistato 164 miliardi di titoli italiani, quindi se il quantitative easing finisce, cosa succede alle nostre nuove emissioni? Certo, tra l'altro anche le banche non ne hanno approfittato, le banche italiane avrebbero dovuto vendere titoli di Stato in maniera massiccia per alleggerire i propri bilanci, invece li hanno tenuti, quindi adesso un aumento dell'yield, del rendimento e quindi una riduzione dei prezzi ha come impatto immediato un effetto sui bilanci delle banche, quindi ritorniamo al 2011. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Certo, Zingales non ci ha messo di muore stamattina, Mario, categorico, mi sembra molto molto categorico. È un enorme, bellissimo, puntuale arrivo della realtà. La realtà è onesta e Zingales è da ascoltare con grande attenzione. Io la penso esattamente così come lui. È finita l'epoca dei tassi negativi, i tassi si alzeranno, la BCE dovrà comunque cambiare politica. Tanto comincia la Yellen. Certo, abbiamo uno stock di debito micidiale, emettiamo ogni anno tra i 300 e 400 miliardi di debito a seconda delle nostre esigenze, i tassi saranno più alti, non c'è mai stata in questi anni una reale spending review, purtroppo. No, beh, tre titolari della spending se ne sono andati e in più abbiamo, secondo l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, secondo Banca Italia e secondo la Corte dei Conti, una previsione di crescita all'1% che definire ottimistica è poco. Vedete voi dove andiamo a sbattere. No, dove andiamo a sbattere, proviamo a dircelo, perché che si deve fare? Perché non è che si deve fare... dobbiamo lasciarci con questa angoscia. Ma chi governa, adesso, con tutta sincerità... C'è fatta l'analisi, un po' dura, proviamo a immaginare che facciamo. Ora, tolto questo piccolo, diciamo, luogo di libertà che abbiamo su Radio 24, e qualche altro luogo dove questo dibattito c'è stato, il dibattito pubblico non è su questo. No. Il dibattito pubblico in Italia dopo Trump è di una povertà culturale impressionante. Continuiamo a dire questo, però detto questo il governo si deve mettere palla lunga e pedalare e trovare una soluzione seria a questo problema. Ma in Italia o in Europa la soluzione? In Italia e in Europa, perché l'Europa mi sembra quasi più addormentata dell'Italia. No, l'Europa è in una crisi pazzesca. No, l'Europa appunto, rischia dal punto di vista delle scelte da fare. Mi sembra tecnicamente, se uno pensa alla reazione che ha avuto Juncker, mi sembra che siamo davvero l'assenza di leadership, certo, a livello. A Merkel, silente. Merkel c'ha le elezioni. Quello non parla. Hollande pure. Si candida al quarto mandato. Il problema è che la Germania è al bivio, cioè devono decidere che cosa fare loro. Cioè non possono avere la leadership ma non assumersene le responsabilità. Secondo te, Pietrangelo? La soluzione è la sovranità. Per decidere bisogna poter decidere. E l'Italia, se vogliamo raccontare la nostra storia, è nelle condizioni di non poter decidere e di dover fare solo quello che altri gli dicono di dover fare. E quindi l'immersione degli stati nazionali è una reazione a questa assenza, a questa impossibilità di decidere. Certo, perché l'identità dei popoli è come il fumo, non può essere rinchiuso in una scatola, da qualche parte deve uscire. Le catastrofi politico-economiche nascono quando una struttura, una superfetazione che non ha nessun fondamento né spirituale né culturale né tantomeno politico, quale per esempio potrebbe essere l'Unione Europea o peggio ancora certe alleanze imposte, non possono determinare la volontà dei popoli. Posso dire una quando arriva cosa, un leader che spacca tutto questo gioco, si ricomincia. Si rivede emergere una realtà che era tenuta nascosta. Sì. Posso dire una cosa? Allora, qua ancora una volta c'è un principale attore che è Mario Draghi, quindi noi dobbiamo seguire con grande attenzione che cosa dirà lui nelle prossime settimane e che cosa farà nel confronto con la Germania. Tutto questo ovviamente non basterà, cioè certo, perché no, la banca centrale non è più una soluzione finanziaria. Esatto, non è più solo una soluzione finanziaria, certo. È una soluzione di governance politica. Dell'Europa. Certo. E qua devono trovare la soluzione, altrimenti l'Europa si sfascia, cioè non c'è soluzione. O si fa o si sfascia, è siamo così. Arrivati al punto. 800 24 00 24, numero verde, 349-238-6666, l'SMS, pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Suzuki Baleno Hybrid, il modo più semplice di guidare un'auto ibrida. Mix 24. Allora, Pietrangelo, che sentiamo? Arriva. You sent me off without a warning. Wasn't just a threat, and man, that was no joke. Did you know you'd struck the final blow to my faithful oxen hope? We thought we knew we wanted what we had, but you busted your side of the yoke. E allora c'erano le sirene oggi metropolitane, quelle con la coda, non certo i lampeggianti. Non stavano ferme, andavano su e giù per i vagoni cantando e trascinando i pendolari, sia gli uomini che le donne, portando tutti a spargere fremiti e desideri di fuga, anzi di oblio. Oh, Giovanni, ha chiamato Calypso. Mancava Calypso. Ha voluto questo brano, Mario, con un messaggio. Potete dire a Ulisse che gli esseri umani non sono personaggi? Hai capito bene, Mario? Io sto fermo a Calypso. Frega di Ulisse a me. Senti, andiamo con una bolla. Sì. Chitarre. Meno male, mi stavo addormentando. Allora, restiamo un po' in America, Giovanni, per fare il punto sulla battaglia di Trump con vari pezzi dell'industria che delocalizza. Allora, il numero uno della Ford, Mark Fields, ha detto che non gli piace l'idea di Trump di mettere i dazi sull'industria dell'automobile. Perché? Perché? Deve localizzare, deve riportare le fabbriche in America. Sì, siccome ha un progetto per delocalizzare in Messico, allora dice: no, ma io questo non lo voglio fare. Però Obama ha cominciato a riportare. Sì, assolutamente. Però è interessante questo scontro perché, tra l'altro, forse l'abbiamo già detto, però lo ricordo, che è una cosa importante: il 32% dei lavoratori del United Auto Workers, che è il più grande sindacato dei lavoratori dell'automobile, ha votato Trump. Esatto, e il presidente del United Auto Workers, Williams, è disponibile a lavorare molto approfonditamente con Trump. Quindi lì sta succedendo qualcosa di nuovo, indubbiamente. Vediamo che cosa fa con i dazi, appunto, con col commercio sostanzialmente. Salamino. Il no di Silvio Berlusconi in realtà, caro Giovanni, è un sì. È un sì a chi? Lo sapete cosa ha detto? Vedo un solo leader in Italia. È Matteo Renzi. Come ti ho fregato? Niente, allora... non ti vabbè. E questo mi ha fatto capire il perché il sì di Matteo Renzi invece è un no. Oh, tanto per cominciare, che cosa ha fatto Matteo Renzi? Ha tolto di mezzo gli impresentabili. Se così si può dire di lei, che è soave, severa e definitivamente silente. Oh, Maria mio. Elena Boschi. Si va dappertutto. Ma non è suo papà? Sì. Burlava e te la ricordi questa canzone? No. La facciamo sentire? No, no. Oh, allora, la foresta dei no minaccia Boschi e il sì diventa un no ricotta. Il no ha un argomento definitivo, forte e potente, che è diventato quindi il sì per Renzi, perché è il no all'Europa. Tanto per cominciare, ha fatto togliere dal suo studio la bandiera europea, quel vessillo con le stelline in cerchio che è simile all'abaro di una catena alberghiera, e ha fatto sfilare una parata di tricolori festanti col bianco delle nevi delle Alpi, col verde dei colli di Toscana, col rosso dei tramonti siciliani, e si fa dare i sì per dire no all'Europa, perché il governo italiano ha lanciato l'offensiva contro l'Unione Europea. Due veti in un solo giorno. Uno contro Juncker, l'altro poi contro il Consiglio, e i sì li fa diventare no con una promessa all'elettorato che è largamente anti-europeo, perché ha detto che se vince il referendum Renzi parte, lancia il resto e sfascia l'Unione Europea. Oh, ha già ricevuto i complimenti dai lepenisti. Oh, ha tolto il drappo europeo, e a questo punto coerenza vuole, e faccio richiesta, domanda, ufficialmente lo chiedo, lo dico, che Renzi chieda scusa a nome della sovranità a Simone Di Stefano, cioè il leader di Casa Pound a suo tempo arrestato per avere tolto da un balcone appunto la bandiera dell'Unione Europea. Perché se hanno arrestato Simone, a Renzi che gli devono fare? Insomma, la bandiera bianco delle col rosso dei tramonti siciliani. Dai Mario, vai con la bolla. Allora, esistono ancora, ma proprio siamo negli anni 80. Police. Vabbè, mi riaggancio alla cosa che diceva Pietrangelo per fare un po' di politica interna, per parlare, certo, diciamo, tutta politica estera, di quello che c'è, diciamo. Allora, sì, Berlusconi stamattina ha detto che Renzi è l'unico leader dentro la politica. E uno dice, vabbè, ma che succede? Vabbè, che avesse simpatia per Renzi, lo sappiamo, che ne riconosca le doti, diciamo, politiche pure. Che lo dica stamattina. Il Nazareno si avvicina. No, sì, anche secondo me. No, e quindi il no diventa sì. E allora, però. Il sì diventa no. C'è anche un altro aspetto, però, parlando di leader, aspiranti tali, delfini e successioni. Cioè, succede che Stefano Parisi è già a fine corsa. E allora. Ma quello qua, vedremo. Guarda, finché c'è Berlusconi, questa vedremo. È la mia. Ovviamente fallace. Ma Berlusconi ha sempre giocato su due tavoli, quindi, no? E quindi ne tiene uno di qua, allora, e uno di là. E lui dice: no, senza Lega non c'è leadership, perché senza coalizione ovviamente non c'è vittoria, senza vittoria non c'è potere, e senza potere alla fine c'è il vuoto. Allora vi faccio una domanda, dovete rispondere, non siate reticenti. Ma non è che Matteo Salvini poi per davvero guiderà il centrodestra? No, a questo punto escludo. No, escludi. Io escludo assolutamente. Pietrangelo? Vale un principio: chi gioca da solo non perde mai, e Berlusconi gioca da solo in un campo che è tutto suo. Il titolare, il padrone del cosiddetto voto moderato è Silvio Berlusconi, finché in politica è cosa sua, e probabilmente, da quel che pare, lo affiderà a Renzi. Ai noi. Siamo d'accordo tutti. Io ho detto no, lui l'ha articolato. Vabbè. No, penso anch'io così. Cioè, finché c'è lui non c'è per te. Cresci e divieni foresta immensa, un più fervido mondo, tutto sbocciato di fiorenti gemme. E tu, linguaggio degli amanti, sì, di questa terra la favella. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Aiutino? Qui non ci vuole un aiuto, qui ci vuole proprio, va bene, allora, un aiutone. Siamo a livelli di Dante, anzi di più. È stato commentato da un grande filosofo quale Martin Heidegger. Carmelo Bene ci fece anche uno spettacolo accoppiandolo al Giacomo Leopardi. Più aiutino di questo, vabbè, che devo dire, okay. Pure il nome di battesimo, Friedrich, sarebbe meglio. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, SMS. Beh, era tedesco. No, perché questi sono gli ascoltatori renziani e non studiano il tedesco. Viabilità. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRT di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Mix 24. Immaginate il più famoso giocatore di calcio di tutta l'Europa. Questo era Pat quando ha preso quella decisione. Ogni radio, ogni stazione televisiva, ogni persona che avesse accesso al pubblico parlava di lui. Patrick Tillman, un campione di football americano, a maggio del 2002 abbandona la propria carriera e si arruola volontario nell'esercito americano insieme al fratello Kevin. È un episodio a cambiare la vita di Patrick: l'attacco alle Torri Gemelle. La prima torre era appena crollata e la seconda era in procinto di crollare. Stavo guardando tutto in diretta. Io ho pensato: Gesù, io sono sulla East Coast, mentre tutta la mia famiglia è sulla West Coast. E ho sperato che non succedesse nulla lì, a San Francisco. Il campione rifiuta un contratto da 10 milioni di dollari e prende una decisione importante. Lascia il campo e si arruola nell'esercito americano, come aveva già fatto suo nonno. Il mio bisnonno ha combattuto a Pearl Harbor e molti dei miei familiari hanno dato molto in guerra. Io invece non ho fatto niente. Mandato prima in Iraq e poi la volta di una missione in Afghanistan. Ed è qui che il 22 aprile del 2004 Pat muore. Una morte che diventa un giallo sul quale fa luce una commissione d'inchiesta. Il verdetto è amaro. A uccidere Patrick Tillman è stato il fuoco dei compagni, il fuoco amico. Pat Tillman è stato ucciso dagli uomini del suo stesso plotone il 22 aprile del 2004. Ancora oggi la famiglia non sa perché l'esercito abbia dichiarato a tutto il mondo che il caporale Tillman è stato ucciso dal nemico, quando sapevano da subito che era stato ucciso da fuoco amico. Una storiona. Enrica da Torino sul... Pronto? Sì, buongiorno. Ecco, buongiorno. Hai indovinato? Allora, è giusta la risposta, vero? Qual è? Non sì, l'ha detta? Allora la ripeto, dunque l'avevo detta all'operatrice. Ah, dunque, l'operatrice. Hölderling, l'autore, l'amore. Esatto. Giusto! Critica di Diotima. Com'è che lo sa? Allora, ci sono arrivata quando hai detto a Heidegger, che l'aveva citato, eccetera. Ah, visto. Ma l'aiutino. Che fa di bello, signora, Torino? Ma io niente, lavoravo nella consulenza finanziaria, adesso insomma ho lasciato e quindi mi occupo delle cose che più mi interessano. Ah, bene. Anche perché è data l'età, insomma. Grazie, signora. Adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA Internal Medicine, luglio 2016. Attivare gli anziani ospedalizzati per combattere l'epidemia della inattività. Sapete cosa succede quando un anziano viene ricoverato in ospedale? Soprattutto, quanto tempo pensate che stia fuori dal letto? 45 minuti al giorno, meno del 5% se facciamo conto delle 24 ore che costituiscono la giornata. Ora, la permanenza a letto è tossica di per sé, è malattia di per sé. E di fatto questa immobilità porta infatti a disabilità, istituzionalizzazione e morte. L'ospedale è attento alle infezioni, alle complicanze che possono nascere, alle cadute che magari capitano andando dal letto al gabinetto, ma non è mai attento all'immobilizzazione forzata che è accettata da tutti quanti come inevitabile nell'ospedalizzazione. Certo che in ospedale c'è poco da fare e poco da andare a vedere, per cui lo stimolo per alzarsi è modesto. Però se uno dà un mobility coach che va due volte al giorno al letto del paziente e lo stimola ad alzarsi o gli dice quali sono le possibili dannosità del rimanere fermo, bene, questo ha un effetto straordinario, perché questi anziani tornano a casa con una infinitamente maggiore capacità di movimento, cadono di meno sia dentro l'ospedale che una volta dimessi e in qualche modo sono anche più felici. E per chiudere, Gloria Guerrero stamattina? Oggi una canzone per chi si domanda ogni giorno perché mi ignori, come fai a non vedermi? Se sapessi come fai, il mio amatissimo Luigi Tenco. Se sapessi come fai a fregartene così di me, se potessi farlo anch'io ogni volta che tu giochi col nostro addio. Se sapessi come fai a essere sempre così certa che io dico, ma alla fine vengo poi sempre a pregarti non andar via. Vorrei che per un giorno solo le parti si potessero invertire, quel giorno ti farei soffrire come adesso soffro io. Se sapessi come fai a fregartene così di me, a sapere così bene sino a che punto ho bisogno di te, a saperlo così bene ancor meglio di me. Un giorno solo le parti si potessero invertire, quel giorno ti farei soffrire come adesso soffro io.